si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno e buona domenica, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi con Si può fare. Staremo insieme sino alle 11 e vi ricordo subito la parola chiave per giocare con noi questa settimana al nostro contest Inviati Cercasi. L'abbiamo già detto ieri, lo diciamo anche oggi, la parola chiave per le vostre buone notizie è... legalità. Legalità, legalità. Se avete buone notizie che riguardano la vostra città, il vostro quartiere, la vostra regione, associazioni che si occupano di questo, le scorte civiche ai magistrati in Sicilia, piuttosto che le campagne contro il pizzo, insomma, siamo voluti partire da qua questa settimana per raccogliere le vostre buone notizie. Avete tempo fino a mercoledì per scriverci, potete mandare una mail a si può fare @radio24.it, potete trovarci sui nostri social network, su Twitter @sipoffare24, il mio @AleMaurizi. Siamo anche su Facebook, si può fare /radio24. Mandateci la vostra buona notizia che riguarda la legalità entro mercoledì. Il racconto più bello lo manderemo in onda sabato prossimo. Ma adesso andiamo ad iniziare come ogni mattina con una buona notizia. And now the good news. Capitolo abolizione delle province. Dopo l'approvazione del disegno di legge, poi diventato legge, di Graziano Del Rio, che riguarda appunto l'abolizione progressiva delle province a tappe, lo sappiamo, il Consiglio Provinciale di Firenze, ma sono altre le città che stanno facendo la stessa cosa, ha deciso di lavorare gratis tutti gli assessori e il presidente della Giunta Provinciale di Firenze, Barducci, forse proprio perché è la città di Renzi, per dare anche un senso a questa riforma. Ebbene, hanno deciso di lavorare gratis da giugno fino a dicembre, i mesi di transizione, quando poi le province spariranno. Dice il presidente della provincia, Barducci: torneremo ognuno al suo lavoro, riuniremo la giunta alla sera compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno e staremo a vedere. Comunque è una buona notizia. Dare comunque seguito agli annunci che si fanno sui giornali, alle riforme, alle cose, poi bisogna andare a vedere nei rivoli piano piano come vanno avanti queste riforme. Era il capitolo abolizione delle province. Ma di che cosa invece si occupano i giornali quest'oggi? Naturalmente molto, come sempre, di politica, dopo l'incontro di Renzi al Quirinale, ma soprattutto della giornata dei quattro papi, ne parleremo e ne abbiamo parlato molto anche noi di Radio 24. Cominciamo con anche poi la gaffe di Berlusconi, o meglio la frase di Berlusconi sui lager e le reazioni in Germania. Cominciamo con il Corriere della Sera, che si occupa di politica nel titolo principale. Ora si tratta sul nuovo Senato. Berlusconi dice: i tedeschi negano i lager e scoppia un caso europeo. Un'ora di colloquio al Quirinale con il Presidente della Repubblica. Al centro ci sono le riforme di cui l'Italia ha urgente bisogno. Sul nodo che divide il governo da Forza Italia, per la prima volta il Premier Matteo Renzi apre alla possibilità di modifiche, seguendo le raccomandazioni di Napolitano, che ha suggerito un atteggiamento di flessibilità sia sui tempi sia sui contenuti. La giornata però, dicevamo, è stata movimentata anche dall'apparizione di Silvio Berlusconi, tornando sull'episodio del suo scontro, ricorderete, all'Europarlamento con Martin Schulz. Ha accusato i tedeschi di negare i lager. Immediate le reazioni di sconcerto in Germania e in Europa. Ma, dicevamo, dei papi, la messa dei due papi, 1 milione di fedeli. Oggi a Roma Bergoglio e Ratzinger celebrano insieme la canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Tra i tanti commenti della stampa di oggi, mi ha colpito questo di Andrea Riccardi sul Corriere, che trova qual è il tratto in comune tra i due papi che vengono canonizzati, le figure di Roncalli e Wojtyla. Dice: hanno rimesso la Chiesa al centro della storia. E poi il tema del Concilio Vaticano II. Leggiamo velocemente: Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, così popolari tra i cattolici, ma anche, questo è il punto, al di fuori della Chiesa, i due papi, in modo diverso, hanno rimesso la Chiesa al centro della storia e della vita. I due sono uniti dal Concilio Vaticano II, Giovanni XXIII ne è il padre, l'ha convocato e l'ha guidato. Carlo Wojtyla è stato un vescovo attivo del Concilio, del resto i lefebvriani, opponendosi al processo di beatificazione di Wojtyla, hanno argomentato che proclamarne la santità sarebbe stato consacrare tutte le sue imprese, anche le più scandalose, e le sue imprese erano i frutti di questo concilio, cioè l'ecumenismo, lo spirito di Assisi, il dialogo con gli ebrei e le religioni, e tutte queste, queste aperture. Questo è il tema fondamentale, secondo Andrea Riccardi, che unisce i due papi che oggi vengono canonizzati. Ma dicevamo delle reazioni in Germania alla frase di Berlusconi. Sul Corriere c'è una rassegna di alcune di queste reazioni. Leggiamo attacchi. Allora, intanto ripetiamo, no? Per i tedeschi i loro lager non sono mai esistiti, questa è la frase di Berlusconi, che evidentemente è in campagna elettorale, se ne occupa di ricordarcene anche Alessandro Sallusti sul Giornale, tra poco leggeremo, e la Germania è un bersaglio ideale in questo periodo. Leggiamo alcune reazioni, dicevamo, attacchi inqualificabili, ha detto la ministra della famiglia tedesca Manuel Schwesig, una delle dirigenti dell'SPD, Partito Socialdemocratico tedesco, aggiungendo che tutto ciò si dimostra quanto sia importante la lotta contro il populismo di destra. Altra reazione è quella del segretario generale dei cristiano-democratici, quindi Peter Teuber, un moderato. Affermazioni così assurde, ha detto, che non possono essere nemmeno commentate seriamente. Poi c'è l'europarlamentare CDU, partito di Angela Merkel, Elmar Brok, consigliere di politica estera della Merkel stessa, che dice, a proposito di Berlusconi, parole da vecchio, fuori dalla realtà, che mi disturbano e per le quali voglio che dia spiegazioni. Vabbè, era normale che ci fossero queste reazioni. Il resto Berlusconi l'ha fatto proprio per questo, probabilmente. Dicevamo, il Giornale di Alessandro Sallusti dà la sua spiegazione: schiaffo alla Germania, Berlusconi verso le europee, quindi è proprio un tema di campagna elettorale. Il Cavaliere parla dei lager e l'eurosinistra si scatena, ma non solo, abbiamo visto anche i moderati. Non so perché, scrive Sallusti, ieri Berlusconi sia tornato sulla famosa querelle con il capo, tra virgolette, Schulz, capo, lo disse Berlusconi, non che Schulz qualcun altro lo chiami capo, Allora era eurodeputato, oggi candidato della sinistra a guidare l'Europa. Immagino, dice Sallusti, che Berlusconi volesse ribadire che non siamo né ci sentiamo sudditi della Merkel e della sua concezione dell'Europa. Verissimo, giusto, io mi metto anch'io tra la schiera di quelli che non vogliono sentirsi sudditi della Germania e della Merkel. Magari non capisco cosa c'entrava tirare in ballo i lager. La politica, dicevamo, la politica con il nodo, si tratta sul nuovo Senato, scrive il Corriere, ma se ne occupa anche Repubblica, che per esempio con un'intervista al capogruppo di Forza Italia, Paolo Romani, dà una spiegazione di quello che sta succedendo, di questo, diciamo, cambio di posizione di Forza Italia e di questo annuncio di Berlusconi, che ha detto, insomma, addirittura l'Italicum sarebbe incostituzionale dopo averlo diciamo sottoscritto insieme a Renzi nel famoso patto del Nazareno. Allora gli chiede il giornalista a Paolo Romani: ma insomma, ci sono margini di mediazione? La questione è quella dell'elezione diretta del Senato. Si possono trovare soluzioni ragionevoli, dice Romani, ad esempio votando in occasione delle elezioni regionali anche una quota di consiglieri che vanno a fare solo i senatori, cioè al momento del voto per le elezioni regionali si dovrebbero votare, secondo Romani, dei consiglieri che andrebbero poi a fare i senatori. Oppure sia il Consiglio regionale al suo interno a eleggere i senatori. Insomma, Forza Italia adesso punta i piedi perché siano eletti questi senatori. La modifica più urgente però è rendere la composizione del Senato proporzionale rispetto alla popolazione delle regioni, altrimenti la riforma è inaccettabile. Scusi, ma il patto del Nazareno quindi non è più valido? Quel patto non prevedeva di trasformare il Senato in un'assemblea dei sindaci, ma senatori eletti di secondo grado, il taglio delle indennità e la fiducia solo alla Camera. Quindi ha ragione Renzi, non è prevista l'elezione diretta, e questo è il nodo che ritorna. Risponde Romani, dice: guardi, io stesso l'ho detto a Berlusconi, attenzione, perché al Senato una larga parte dei senatori è a favore dell'elezione diretta. quindi era stato deciso di fare un'elezione indiretta, però adesso realisticamente qualcuno sta prendendo atto che i senatori sono contrari e quindi siccome i senatori sono contrari non si fa l'elezione indiretta, ma non si fa, almeno si ventila l'ipotesi che non venga fatta. C'è una soluzione di compromesso che si profila all'orizzonte, ce lo ricorda La Stampa con un articolo dedicato all'emendamento che sta per presentare un senatore del PD, Francesco Verducci, che prevede questo: elezione contestuale da estendere anche ai consiglieri comunali, oltre a quelli regionali. È una materia tecnica difficile, cerco di spiegarvelo, ovvero l'indicazione in sede di votazione dei consiglieri regionali di quelli candidati a essere nominati poi nella compagine senatoriale. Cioè io voto per il consigliere regionale e a fianco aggiungo che questo consigliere regionale vorrei che andasse anche al Senato, quindi non lo eleggo un'altra volta, lo eleggo solo una volta come consigliere regionale, ma do in aggiunta questa possibilità. Potrebbe essere questa la mediazione che fa dire a Renzi, all'uscita ieri dal colloquio con Napolitano, tutto bene, andiamo verso le riforme. Il Sole 24 Ore, giusto un titolo che è una buona notizia: dai bonus per l'edilizia un boom da 28 miliardi di euro. Secondo i dati della Camera, i risultati oltre le attese per i lavori in casa nel 2013, ma anche per i primi mesi del 2014, gennaio-febbraio, pensate, più 54% di richieste rispetto all'anno scorso. Sono gli interventi per le ristrutturazioni edilizie e il risparmio energetico che sono stati incentivati dall'aumento dei bonus varati dal governo Letta, confermati anche adesso. Forse era partito anche Monti con questa iniziativa. Fatto sta che sembra che questi bonus stiano facendo girare l'economia oltre le previsioni. Ebbene sì, una buona notizia. Adesso sul Sole 24 Ore torneremo tra un attimo per andare a curiosare tra le pagine del Domenicale l'inserto culturale. Adesso però facciamo una pausa per il traffico. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati. Dunque, adesso come ogni domenica a quest'ora è l'ora di andare a spulciare tra le pagine dell'inserto culturale del Sole 24 Ore del Domenicale. Ritroviamo Armando Massarenti, buongiorno. Buongiorno. Curatore, buongiorno, responsabile, direttore di questo vero e proprio giornale, nel giornale che è il Domenicale. Armando, una settimana difficile per chi si deve occupare come te del nostro immaginario, della cultura, perché una settimana in cui le immagini forti sono quelle del 25 aprile, dei quattro papi. Oggi a Roma si parla molto di questi temi. Voi come siete riusciti anche a stuzzicare il nostro immaginario anche su altri argomenti? Ma diciamo, questi sono argomenti che noi abbiamo anticipato nelle settimane scorse. Tra l'altro oggi sul Sole 24 Ore, nella prima sezione, c'è a proposito di 25 aprile, c'è un bel intervento di Elena Cattaneo che in Piazza Duomo l'altro giorno, per la prima volta per una scienziata come lei, ma per la prima volta nella storia, appunto, uno scienziato ha parlato in piazza di scienza durante il 25 aprile. Anche questa è una forma interessante di come si può rinnovare il messaggio di 70 anni fa, cioè una forma di resistenza diciamo anche culturale che ci caratterizza. Ecco, oggi per esempio la settimana è stata anche la settimana in cui finalmente, lo diciamo noi che abbiamo insistito ormai fin dal 2012 sulla questione Vannoni, sul fatto che si trattasse di un caso eclatante di ciarlataneria e di imbroglio, di speculazione sulle sofferenze altrui, ecco Vannoni che è stata la chiusura delle indagini. La chiusura delle indagini, queste 70 pagine micidiali di Guariniello, che vengono commentate da chi? Da uno degli scienziati importanti, Michele De Luca, forse il più importante di tutti per quanto riguarda la realizzazione di cose vere invece che riguardano staminali, che fa un commento molto, molto puntuale e molto deciso, come tutti quelli che abbiamo fatto, facendo intervenire anche altri grandi scienziati come la Cattaneo, come Paolo Bianco. Ecco, De Luca cosa dice? Ecco, almeno adesso evitiamo, è un appello alla Lorenzin che si è comportata molto bene, le istituzioni, in effetti alcune delle istituzioni sono comportate molto bene in quest'ultima fase, anche il ministro, lo ricorda anche Luca Pani che appunto fin dal 2012 aveva denunciato questa situazione, adesso per favore, dice Lorenzin, evitiamo di sperperare soldi pubblici per una sperimentazione che non ha senso. Ecco, è una cosa appunto che non ha senso, ma proprio a partire dallo specifico di quello che del lavoro che noi facciamo la domenica, cioè della cultura, cioè di cosa significa in un paese moderno avere una cultura adeguata, soprattutto per quanto riguarda le classi dirigenti, anche per quanto riguarda i media che hanno avuto delle responsabilità molto forti nel far montare questa, questo scandalo, diciamo, di Vannoni e del non far capire per lungo tempo come stavano realmente le cose, cosa che in quelle 70 pagine pare che siano effettivamente ormai dovrebbero essere evidenti a tutti. Quindi la cultura, allarghiamo pure quindi l'ambito, siamo partiti dalla scienza, tra l'altro oggi io sono, vi parlo da Urbino dove è in corso il Festival del Giornalismo Culturale, la seconda edizione, e questa mattinata è proprio dedicata ai nostri temi, dalle 9:30 la cultura come motore di sviluppo dopo il manifesto del Sole 24 Ore. Interverrò proprio fra una mezz'oretta, alle 9:30 qui a Urbino, peraltro in una città splendida, particolarmente significativa proprio per i temi dei beni culturali e del mettere al centro di nuovo appunto la cultura come motore di sviluppo, non come qualche cosa che città che tra l'altro illustro. Ha partecipato anche alla candidatura come capitale europea della cultura 2019 per quanto riguarda l'Italia, quindi città in fermento. Esatto, una città bellissima, tra l'altro qui vediamo veramente che cos'è, non solo appunto una città rinascimentale, ma vediamo anche che cos'è il paesaggio italiano, ecco, cioè il paesaggio che è quella cosa ricca di cultura e che dobbiamo ricominciare a rivalorizzare. Ecco, quindi parleremo di questo, quindi parleremo anche tra l'altro di Senato, della nostra idea del Senato, delle competenze, perché è vero che non è emerso molto, forse per niente, dalle cronache rispetto al colloquio di ieri, sì, tra il presidente Napolitano e Renzi, ma hai qualche notizia tu, hai qualche indiscrezione? Diciamo così, no, diciamo che rispetto al discorso di ieri non lo so, però la nostra idea che abbiamo lanciato noi, 5 senatori, che però non è che ci piace l'idea che siano nominati dal Presidente, ma comunque l'idea che ci siano, che se questo nuovo Senato debba essere non una cosa di serie, ma anzi qualche cosa che incamera delle competenze, ha a che fare con i temi che dicevamo prima, perché se avessimo avuto delle competenze al Senato e in generale all'interno del mondo politico nel processo decisionale, probabilmente non avremmo avuto appunto il caso Stamina, che pure dove pure appunto la politica. Se avremmo avuto qualcuno che se ne accorgeva un po' prima, insomma, che anche in Parlamento, esatto, e magari qualche autorizzazione non sarebbe arrivata. Sono d'accordo. Infatti, anche non si sarebbero stanziati i 3 milioni di euro dell'anno scorso appunto per una sperimentazione che non ha senso. Quindi le competenze contano. La nostra apertura oggi in realtà parla di una competenza assolutamente basilare, cioè quella dell'italiano. Ci sono i nostri tre collaboratori illustri, molto giovani, ma già veramente affermati, Giuseppe Antonelli, Matteo Motolese e Lorenzo Tomasin, che scrivono, firmano insieme la copertina Cosa vuol dire scrivere in italiano, e dove fanno un bellissimo affresco di che cos'è l'italiano di oggi e che cos'è stato l'uso dell'italiano scritto ma anche orale in tutta la sua storia. Quindi un pezzo secondo me molto, molto bello, che ci fa capire come l'italiano scritto oggi sia comunque una lingua che può avere anche dei difetti, ma una lingua funzionale che ha tutta una sua quindi insomma se volete fare una manutenzione anche sul vostro italiano, oggi è il caso di andare a comprare il domenicale in edicola. Grazie Armando Massanetti, ti ritroviamo domenica prossima, adesso ci dobbiamo fermare, c'è il giornale radio naturalmente, noi invece ci ritroviamo subito dopo con Si può fare, anche al numero verde 800 24 00 24. Si può fare, cronache da un paese migliore. Buongiorno. Buongiorno cari ascoltatori, 800 24 0024 il numero verde per poter intervenire in diretta. Potete commentare quello che sentite, potete raccontarci come facciamo ogni weekend che cosa ha reso più bella la vostra settimana. Siamo sempre a caccia naturalmente di buone notizie. Potete anche partecipare al nostro gioco della domenica che è indovina il personaggio della settimana. In palio un bel soggiorno responsabile offerto dagli amici di EcoTube. Questo però tra poco, dopo la pausa per il traffico, arriverà il primo indizio per indovinare il personaggio della settimana. E tra poco, amici vegetariani all'ascolto, restate con noi perché parliamo proprio di voi, un esercito in aumento, quello dei vegani, tanto che si mobilitano anche le farmacie. A tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Forget your red meat and all your cold cuts. The ladies want a piece of my Peter raw nuts. When on a raw diet can't be no hater. I cook my food in a dehydrator. I got a bitch that goes by the name of Mallory. She gets on her knees and plays with my celery. Hey, by the bill, AC, big as later. Wait, is that beef? Oh no, Terminator! Beef, chicken, pork, hell nah. Vegan raw diet, bitch, y'all drink y'all. Shake the raw titties and shake your raw ass. Drink your raw 40 and smoke the raw ladies. Di nuovo in diretta con Alessio Maurizi, cari ascoltatori, con questa Vegan Rav Diet Music, perché vogliamo parlare, come anticipato, dell'esercito dei vegani. Sono in aumento in Italia le persone che decidono di non alimentarsi più utilizzando alimenti di origine animale, vegetariani, ma qualche cosa di più, tanto che se ne sono accorte anche le farmacie. Allora c'è un progetto Farma Vegana, che sarà presentato il prossimo 9 maggio a Cosmo Farma. Ne parliamo con David Giarrizzo, che è amministratore delegato del gruppo Sitar. Buongiorno. Buongiorno a lei, buona domenica a tutti. Gruppo Sitar, una, se ho capito bene, una sorta di agenzia di formazione che lavora con le farmacie e con i farmacisti. Sì, noi dal 98 ci occupiamo quindi di educazione alimentare, non solo per farmacisti, anche per medici, e biologi e nutrizionisti, dove mettiamo in risalto quanto è importante l'alimentazione anche nei vari sintomi quotidiani, ecco. Quindi partiamo da un'alimentoterapia anche a livello di prevenzione. Ecco, quanto è importante l'alimentazione per la salute? Tempo fa abbiamo visto, per esempio, alle Iene, anche se prenderle a metodo e a modello questa trasmissione televisiva, diciamo, di informazione scientifica può essere fuorviante, basta vedere quello che è successo nel caso Stamina. Hanno fatto un po' scalpore il caso di una persona malata di una grave malattia che soltanto con l'alimentazione era riuscito a ridimensionare e addirittura quasi a guarirsi, eliminando proprio in questo caso alimenti d'origine animale, cioè la famosa cura alimentazione vegana, senza arrivare, diciamo, a questi casi che possono anche essere non spiegabili. Quanto conta l'alimentazione per la nostra salute intanto? Beh, per noi è proprio il centro, oltre naturalmente non ci si nutre solo di cibo ma anche di pensieri, quindi va parallelamente con lo stato nostro psicologico. E l'alimentazione, se noi lo chiediamo allo sportivo quanto importante è, sa che è per lui è il suo carburante, quindi le sue prestazioni vengono molto legate anche al tipo di alimentazione, quando mangia e seguendo un po' tutti i ritmi circadiani. Tendenzialmente quindi lo si fa questa attenzione in casi estremi e la si considera meno in caso di emicranie, stitichezze, sinusiti, dermatiti. Invece per noi diventa fondamentale considerare l'alimentazione proprio per dare maggior performance all'organismo, anche per venirne fuori in tempi più veloci e rigenerare naturalmente un po' il nostro organismo. Secondo i numeri ufficiali, il rapporto Eurispes del 2014, in Italia ci sono 4,2 milioni di vegetariani, erano 3,7 milioni l'anno prima, quindi un incremento da un anno all'altro del 15% di vegetariani. Secondo le associazioni che si occupano di queste cose, i vegetariani sarebbero 7 milioni, quindi ancora di più, quasi il doppio, una percentuale più del 10% degli italiani, di cui 700.000 sarebbero i vegani. Intanto, qual è la differenza tra vegano e vegetariano? Allora, la differenza è che il vegano esclude dall'alimentazione tutti i derivati derivati di animale, quindi non solo la carne, il pesce, ma anche il lattosio, il miele, dove comunque l'animale di per sé viene, è costretto a essere fuori dal suo ambiente naturale. Quindi il vegano esclude completamente tutto, non solo dall'alimentazione, ma anche dai farmaci, delle compresse, quindi chiedono che siano senza gelatine di origine animale, quindi non utilizzano il miele, non utilizzano integratori a base di lattosio. Il vegetariano invece, che è attento anche lui all'alimentazione, invece introduce proteine anche derivanti dagli animali, quindi però sono tipo latte, uova e quindi diciamo prodotti secondari all'animale. Sì, senta, ma è vero che per essere diciamo vegani, cosa che in questi ultimi anni sembra andare anche abbastanza di moda, ci sono articoli, se ne parla molto, è una cosa di cui prima non si parlava per niente, mentre magari essere vegetariani, cioè questa forma intermedia, era già più nota, più diffusa anche in Italia. Però è vero che per essere veramente vegani, quindi diciamo integralisti, vegetariani integralisti, io semplifico, brutalizzo, poi magari qualcuno dirà che non è così, però bisogna anche fare una certa attenzione, perché eliminando tutti questi alimenti per un motivo o per l'altro, ma eliminandoli, si rischia poi anche di impoverire l'alimentazione, tanto che ci vogliono degli integratori. È proprio qui diciamo la base e l'attenzione del nostro progetto Farma Vegana, nel senso che vogliamo proprio mettere una rete a disposizione di farmacisti che in eventuali tipo di consigli o domande o dubbi possono comunque porre delle attenzioni e indirizzare chi vuole diventare vegano o chi è già vegano magari a un consiglio più da medico nutrizionista. Certo, è vero che come un vegano deve stare attento a non avere delle carenze nutrizionali, quindi sanno a livello biochimico che cosa associare cereali con determinati tipi di proteine vegetali, piuttosto che proprio per evitare, certo che non guasta qualche integratore a base di vitamina B12 o quant'altro, però proprio qui che bisogna evitare di rischiare degli abusi. Sì. Perché anche in un'alimentazione normale, tendenzialmente, noi possiamo avere delle carenze, perché sappiamo il frigorifero, noi tutti i giorni abbiamo sempre le stesse cose dentro, e quindi le 5 porzioni di frutta e verdura al giorno ce le dimentichiamo, soprattutto dei nostri figli, e quindi tendenzialmente andiamo lo stesso con bevande gasate, l'alimentazione mediterranea è andata un po' a morire nel tempo, quindi abbiamo merendine con grassi vegetali non idrogenati, piene di zuccheri, e di conseguenza io starei molto più attento in questo momento a quella che noi chiamiamo un'alimentazione quotidiana, che tendenzialmente determina molte carenze, soprattutto sovraccarichi d'organo. Ecco, ma veniamo appunto a questo progetto a cui lei già accennava, Farma Vegana, il motivo per cui l'abbiamo chiamata, perché questo diciamo progetto che verrà presentato a Cosmo Pharma il 9 maggio, e che diciamo segnala l'importanza che sta assumendo il mondo dei vegetariani e dei vegani anche per un settore come quello delle farmacie. Di che cosa si tratta? Allora, innanzitutto Farma Vegana è una rete di farmacisti che attraverso proprio un programma formativo sarà in grado di dare risposte e consigli ai vegetariani e ai vegani, e non solo, anche alle persone che hanno particolare attenzione all'alimentazione come primo mezzo di prevenzione. Naturalmente per aderire è necessario essere laureati in farmacia ed esercitare questa professione, una farmacia o parafarmacia. Quest'anno la formazione inizia a giugno e sarà presente qui, quindi un programma di 100 ore, e nel prossimo turno quindi saranno a disposizione i primi 50 punti con il servizio Farma Vegana. I farmacisti di questa rete naturalmente daranno quindi un apporto nel territorio, visto che la farmacia è un servizio, certo, è un servizio diffuso. Molto diffuso. Sarà diciamo visibile in qualche modo questa cosa, già entrando? Assolutamente sì, logo. Assolutamente sì, con logo Farma Vegana, anche perfetto, perché la formazione è estremamente molto rigorosa, e ci saranno quindi anche dei questionari, delle tesine da discutere in concomitanza quindi anche con l'Asso Vegan, quindi tutto è gestito in collaborazione anche con l'Asso Vegan, l'Associazione Vegana Italiana. Bene, grazie. Allora, Davide Giarrizzo, amministratore delegato del gruppo Sitar, buongiorno, buona domenica, grazie per essere stato grazie con noi. A lei. 800 24 00 24. Cari amici ascoltatori, siete vegani perché? Siete vegetariani perché? Chiamateci, raccontateci come la vivete voi. Siamo partiti da questa notizia perché la cura per l'alimentazione, l'attenzione verso l'alimentazione è sicuramente una buona notizia, se di questo si parla sempre di più, ne siamo contenti. Essere vegetariani o vegani è poi una scelta, ognuno è libero di fare quello che gli va naturalmente, però ci piace che ci raccontiate in diretta le vostre scelte. 800 24 00 24, tra un attimo. Si può fare cronache da un paese migliore. Buongiorno e buona domenica anche a Carlo Gabardini. Ciao Carlo. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buona domenica, ciao Alessio. Non ti chiedo a te come ti alimenti, perché immagino già aperitivi, birrette. Ma come? Io mi alimento benissimo, che a quest'ora mia mamma ci ascolta. Io mangio moltissimi fagiolini, mi piacciono molto i minestroni con l'orzo. Crescendo il naso. Esatto. Tipo Pinocchio, va bene. No, io mangio tutto meno sì. Il gorgonzola. Ah, non so così. Come mai, e mi spiace moltissimo, ogni tanto ci può, una volta all'anno tento questa cosa qua. È un po' impegnativo ma non è una questione, capisco. Ho fatto degli esperimenti, non è una questione di muffe, sì. Perché tipo il roquefort a me piace, quindi non è che sono allergico alle muffe oppure ho un problema, è così. Però insomma il gorgonzola direi che si può togliere da qualunque dieta, sia sì, che sia sì, vegano, sia sì, che uno sì, sia sì. Cari amici carnivoro, che sia musulmano, che sia qualunque cosa. Se avete una spiegazione su questa idiosincrasia per il gorgonzola di Gabardini, chiamateci. Se invece volete dirci perché siete vegani o vegetariani, 800 24 00 24. Carlo, eccoci qua. Visto che il nostro programma si chiama Si può fare, mi sembrava giusto dare una notizia che si potrebbe riassumere come titolo in Si può aumentare. Tranquilli, anche tu Alessio, tranquillissimo, no. Non sto parlando di parti anatomiche, no, assolutamente. Appunto. Ma non c'era bisogno neanche che lo esatto, dicessi. Esatto, ma no, non lo so se non ci fosse bisogno, però insomma, sto parlando di creatività. La creatività si può aumentare, ovvero è un talento innato o si può coltivarla e si può farla crescere tramite l'applicazione di stimoli elettrici e sensoriali al cervello? È quanto vogliono dimostrare gli ingegneri dell'Università di Bologna, alla guida di questo progetto di ricerca CRIM, che è stato anche finanziato dall'Unione Europea per quasi 3 milioni di euro. I ricercatori avranno 36 mesi di tempo per portare a casa il risultato, ovvero stimolare funzioni superiori del cervello per aumentare la creatività. La cosa buona, se vogliamo, la notizia interessa anche tutti, non solamente i ricercatori di Bologna. Tanto è bello che sia una ricerca profondamente italiana alla quale hanno aderito un sacco di università di tutto il mondo. La notizia interessante è che i ricercatori cercano anche dei volontari, quindi perché nella prima fase, come spiega lo psicologo dell'Ateneo Sergio Agnoli, saranno sottoposti test per misurare la creatività di giovani scienziati e artisti tra i 23 e i 28 anni, studenti e laureati magistrali in scienze pure come matematica e fisica. Quindi basta, per partecipare come cavie, diciamo, basta scrivere a sergio.agnoli@unibo.it. Ma se uno poi scopre di essere poco creativo, sai che delusione, no? Già è... di suo tu dici. Dici, sì. Guardi, effettivamente la si può aumentare la creatività, tranne però, nel suo caso, signor Gabardini, bassa, per il quale non c'è proprio niente da fare. No, però loro precisano anche: non vogliamo costruire cyborg o soldati sì. del futuro, però ci interessa l'aspetto scientifico dello studio del cervello umano. Beh. Io, siccome non so se sarò confermato che si può fare, credo che andrò a fare, voglio fare la cavia per questo esperimento che mi sembra per aumentare le tue chance di essere confermato poi esattamente qua. Cioè se riesco a triplicare la mia creatività, forse ancora mezza puntata me la fate fare, per star dietro mi toccherà scrivermi anche a me. Va esatto bene. Poi giusto una notizia veloce, che oggi non abbiamo il nostro angolo della petizione, però questo è in qualche modo va a sopperire all'angolo della petizione. Tu. Esatto. Una ragazza che scrive a Change, che è il sito sì. delle petizioni, per cancellare la trasmissione di televisiva Come mi vorrei. Ah, ha scritto capito, una interessante lettera dicendo: ho visto una puntata di Come mi vorrei e credo che il programma potrebbe chiamarsi piuttosto Come mi vorreste voi. Cioè, il programma con Belen su Italia 1, mi pare. Esattamente, esattamente, che è, diciamo, di è persone che dicono inglese, io vestita così una non riesco. Una ragazza che cerca di trovare ragazzo. Esattamente, sì. Esattamente. Devo dire che in effetti le critiche mi sembrano anche abbastanza corrette, perché dice: non ho mai visto un programma tanto maschilista e pieno di stereotipi. Una ragazzina che guarda questo programma è portata a pensare che l'unico modo per poter avere un ragazzo ed essere accettata dagli altri sia quello di cambiare radicalmente per aderire ad un'immagine stereotipata e falsa dettata da una società omologante. Oh mamma. Trovo abbastanza giusto questa cosa qua, nel senso che siamo ormai molto abituati fra talent, fra reality. Sono tutti così, no, ormai. Sì, però secondo me è un po' diverso, perché nel momento che tu, non so, vuoi ballare, vuoi cucinare, hai di fronte a te effettivamente, diciamo, dei maestri, poi dei puoi modelli, decidere che sì. lo siano o che non lo siano. Però tu sono dici delle persone... nella seduzione, nella relazione di coppia non ci sono, non dovrebbero secondo esserci. Secondo me non è così preciso che ci sia un'unica regola, e diventa anche molto più violento in qualche modo nei confronti di una ragazzina che le viene detto: fai schifo, così non va bene, devi vestirti in questo modo. No, tra l'altro, perché in realtà soprattutto gli viene un po' chiesto, se devo dire, a queste ragazzine un po' di abdicare al proprio gusto, a come si è loro stessi, per trovare giustamente come sottolinea, dice, come mi vorreste voi, invece forse uno dovrebbe essere come vuole lui, essere orgoglioso anche lui. Io devo dire che ho visto un pezzo di questa trasmissione con Belen e sono rimasto, ho beccato un pezzo particolare, sorpreso, perché c'era uno dei due aspiranti fidanzati di questa ragazza che era sotto esame lei, il ragazzo che gli diceva: a me piacciono le ragazze un po' stupide, non devono essere troppo intelligenti, e lei si ribellava, e Belen l'ha brontolata, l'ha redarguita, perché lei si ribellava a questa cosa. Ora io penso che qualunque ragazza, se si sente dire che vuole una ragazza stupida, diceva: tu sei stupido, tu. No, ma soprattutto nel momento che sei con lei, che tu puoi dire: io sto con quella là e mi piacciono quelle stupide. Allora tu, ragazza, puoi dire: vedi, sta con quella là perché gli piacciono le stupide. Ma se cerchi di conquistarmi dicendomi: oh, mi piaci un sacco perché a me piacciono stupide, non è un gran modo. Non c'era feeling. Quel pezzo lì mi ha un po' sorpreso, perché in effetti, insomma, non è che capita spesso di vedere una roba del genere. Secondo me gli è un po' sfuggita di mano. Magari la responsabilità non è di Belen, ovviamente. No. Che invece salutiamo, che è una cara amica. La tua amica Belen. Esatto. E quindi beato te. Mi sembra. Hanno anche chiesto, quando ero dall'invasione barbarica, che avevano deciso che dovevamo fare un programma insieme. Quindi per fortuna non è stato. No, io e Belen. Per fortuna non è stato questo. E arrivo a l'ultima mia notizia, che in realtà, un po' per la prima volta, quindi per me è diciamo un'epifania, per voi un po' meno, probabilmente. Contiene addirittura un ospite, perché era un ospite che volevamo assolutamente in trasmissione, e ci siamo litigati la notizia in qualche modo. La notizia viene da Torino, che però diciamo che potrebbe valere un po' per tutta Italia, ed è, si riferisce al fatto che troppo spesso ci accorgiamo che le strade sono strapiene di buche, fossi, un sacco di persone addirittura si fermano con la macchina, fanno delle foto per segnalare alle amministrazioni queste. Ma devo comunicare alla regia di caricare l'ospite, è così che si dice? Io non so come si dice, perché è la mia prima volta, no, purtroppo. L'ospite dovrebbe essere già in linea, se vuoi salutarlo. Ed è Pasquale Longo. Intanto io chiedo scusa, Pasquale Longo, per questa presentazione, ma è la mia prima presentazione, quindi adesso finisco la presentazione e poi le do la parola. Pasquale Longo e il suo team, diciamo, hanno avuto questa idea, appunto, riguardo le buche, al fatto che tutti si chiedono come si fa a far sì che le amministrazioni le riparino. Hanno inventato il Trova Buche, che è un progetto presentato anche al concorso Edison Start. Ce ne parla Pasquale Longo. Buongiorno Pasquale. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, la notizia è veramente, ci ha incuriosito molto, perché il modo in cui avete pensato di fare questa applicazione è davvero curioso. Prego, ce lo vuoi dire come funziona? Allora, il progetto Trova Buche è nato nel novembre del 2013. Non so se vi ricordate, in quei mesi lì tutti parlavano di buche a Roma, soprattutto nel 2016. No, 2013. Ah, chiedo scusa, pensavo che foste già nel futuro. Dicevo, siete veramente avanti. Esatto, sì, a Roma si parlava molto delle buche di Roma, e quindi queste buche che continuavano a formarsi a causa delle piogge, degli acquazzoni, eccetera. Quindi noi abbiamo detto: ma come fanno? Ma è dentro in una buca, da come la sentiamo? Perché? Perché sentiamo malissimo. Ah, ok. No, prego, prego, vada avanti. Quindi ci siamo un attimo chiesti come fanno delle città grandi come Roma, Milano, Torino a tener conto di tutte le buche che ci sono su magari 100 chilometri di strade urbane. E quindi quello che abbiamo scoperto è che le buche vengono tenute sotto controllo o dalla polizia municipale, oppure grazie alle segnalazioni telefoniche dei cittadini che quindi si devono fermare, capire dove sono, chiamare poi il numero che magari non sono neanche quelle della polizia municipale e segnalare la buca. Quindi se ne vanno 5 minuti soltanto per segnalare la buca. E calcolando che sulla strada mediamente ci sono 85 buche, 5 minuti per 85, diciamo uno alla fine arriva parte mercoledì e arriva a lavorare giovedì. Comunque mi sembra, Pasquale Longo, mi sembra una cosa talmente bella che io, se fossi qualunque assessore, amministratore di qualunque comune d'Italia, la vorrei questa applicazione. Adesso vi sto facendo proprio uno sponsor, un endorso. Però dobbiamo spiegare, secondo me, il meccanismo. Cioè il trovabuca è un dispositivo elettronico che si applica al parabrezza e diciamo monitora e segnala tutte le eventuali buche. È un dispositivo grande quanto un telepass, ed ogni volta che prendiamo la buca lui automaticamente capisce dov'è la buca e segnala la posizione ad un centro di raccolta dati. Quindi in questo modo noi, avendo una flotta di piccoli oggettini messi nelle macchine, nei mezzi pubblici, nei taxi, eccetera, possiamo avere una mappa aggiornata in tempo reale della posizione di tutte le buche, quindi possiamo valutare la... Certo, Pasquale, scusa, tra l'altro non sentiamo neanche benissimo, io non ho sentito, l'ho distratto prima, hai già detto il nome proprio dell'app, Trovabuche si chiama? Sì, l'abbiamo detto. Chiunque, amministratori all'ascolto, sindaci, qualunque cosa fosse interessata a questa cosa qua, vi può contattare. Dove vi trova? Avete un sito? Abbiamo un sito, sì, che è trovabuche.it. Bravi. Come hai detto, abbiamo partecipato anche al progetto di Start e stiamo aspettando i risultati. Va bene. Ottimo. Grazie mille, è davvero una cosa curiosa, nessuno ci aveva pensato fino ad ora, però è abbastanza geniale. Cioè tu lo metti sulla macchina, automaticamente il comune ha tutti i dati aggiornati, poi bisogna vedere se intervengono. Infatti diventiamo tutti delatori di buche, sì. Siccome non credo che ci sia un'associazione in difesa, probabilmente c'è anche un'associazione in difesa delle buche e dei dossi minori. Sai qual è il problema? Che poi i comuni dopo non avrebbero più scuse. Perché... Infatti la vera questione che mi interessava era questa, nel senso che spesso forse sono anche l'amministrazione che, anche se non le sanno tutte le buche, nel senso che molte buche sono talmente evidenti che è impossibile che loro non lo sappiano, diciamo che forse non ci sono i fondi per ripararle, però intanto troviamo le buche, poi ci pensiamo. 800 24 0024 è il momento degli ascoltatori. Antonella da Parma, buongiorno. Buongiorno a voi. Antonella, resti in ascolto un attimo, perché qua dobbiamo dare l'indizio al personaggio della settimana, perché vince anche oggi un soggiorno responsabile di EcoTube. Allora parto io, mi incarico io di dare questo primo indizio. Il nostro personaggio della settimana è un ex qualche cosa. Iniziamo così. Vai Antonella. Sì, io volevo parlare un attimino della mia esperienza di vegana. Io sono 24 anni che sono vegana e 18 anni fa ho aperto un ristorante biologico vegetariano vegano a Parma, e devo dire che i numeri sono veramente aumentati in modo esponenziale. Cioè prima venivano poche persone, avevate 4 tavoli, adesso ne avete 40? Ah, io pensavo in genere, perfetto. Ma anche perché c'è molta più attenzione, le persone sono molto più attente al loro stile di vita e quindi di conseguenza questo ha portato assolutamente a una consapevolezza superiore anche a livello alimentare. E noi siamo veramente molto contenti, oltretutto organizziamo un servizio consegna pasti con biciclette da trasporto in tutta la città, insomma questo già da 16 anni lo facciamo e questo ci ha anche aiutato a farci conoscere. Quindi voi unite l'aspetto, diciamo, dell'alimentazione vegana con anche il fatto di non inquinare, per cui fate, diciamo, il takeaway in bicicletta. Bello. Esattamente. Beh sì, effettivamente è stato un modo, diciamo, per avvicinare clienti che magari avrebbero voluto raggiungerci ma non riuscivano, e quindi è stata un po' un'esigenza. Ma la roba non arriva un po' fredda in bicicletta? No, assolutamente no, perché abbiamo dei cassoni coi denti e poi Parma è una città piccola, quindi questi cassoni coi denti fanno presto. A Milano sarebbe più difficile, forse a Milano t'arriva. Sì, a Milano sarebbe sicuramente più difficile. Parma è una città abbastanza piccola e si viaggia benissimo in bicicletta con piste ciclabili senza problemi. Stavo dicendo, l'hamburger ti arriva un po' freddo, ma vegano forse un hamburger di tofu di soia. Sì, l'hamburger di soia è buonissimo, certo che esiste. Antonella, ha sentito la notizia di, come si chiama, di Farma Vegana? Sì, ho sentito. Contenta? Sì, assolutamente, anche perché più queste cose si diffondono, più c'è consapevolezza del cibo e più sicuramente saremo più pacifici a livello anche mentale e di atteggiamenti. Perché saremo più pacifici? Mi incuriosisce questa cosa. Perché la consapevolezza, diciamo, alimentare, secondo me è una cosa importante, perché è un punto fondamentale quello che mangiamo. Però di lì a dire che saremo più pacifici, come mai? perché effettivamente quando mangiamo proteine animali tendiamo ad acquisire anche una certa aggressività dello stesso animale, e quindi diciamo che l'evoluzione è quella di andare in direzione più vegetale, perché questo ci porta anche a una condizione di maggior pace interiore, passatemi il termine. Giusto, certo che glielo passiamo. Il nostro organismo fa molto meno fatica a digerire proteine vegetali e quindi evita di dover scaricare troppe tossine. Tante volte le tossine vengono scaricate anche con le tossine. Va bene, cioè fa diventare aggressivo il fatto di mangiare le proteine. Non è che acquisiamo l'aggressività dell'animale che stiamo mangiando. Anche perché sennò uno è aggressivo come un pollo e diventa difficile. Ridicolo. Diciamo. No, stavo pensando, grazie Antonella, mentre Antonella parlava, stavo pensando, dico, ma forse però perdiamo l'aggressività, ma perdiamo anche un po' di energia, no? Perché uno pensa. E poi mi è venuto in mente Veronesi, che è vegetariano da una vita, e non mi pare che abbia perso molta energia. No, ma anche perché le proteine dei fagioli vanno benissimo, non c'è nessunissimo problema. No, la cosa che però forse non ce l'abbiamo più, l'ascoltatrice. Mi interessava. Perché mi interessava, siccome mi sembra che i vegani non mangino neanche le uova, è giusto? È verissimo, né uova né latte. Niente, esatto. E mi chiedevo, neanche il miele. Forse però vi assicuro l'energia che voi, di cui voi sapete. No, però ci faccia fare la domanda. Ma non avevo dubbi, io guardi, sull'energia non ho nessun dubbio e ha ragionissimo. Mi chiedevo, quando un vegano invece incontra un distributore automatico, quali sono le cose che può mangiare? Cioè, in caso di necessità, perché ovviamente sarebbe meglio. Merendine, quelle cose. Esatto. Lì. Non è una battuta, lo chiedo veramente, nel senso che è difficile. La domanda la capisco perché io ogni volta che sono fuori città tendenzialmente faccio molta fatica ad alimentarmi e diciamo che mi appello alla mia capacità di scegliere il male minore, tra virgolette. Ah, ecco, minimizza l'impatto. Perfetto, cerco va bene. Di mitigare i perché danni, non c'è ecco. Niente, diciamo, di vegano all'interno di una macchinetta. Ma vedi, io ho fatto anche un'altra scelta, che è quella del biologico assoluto al 100%, quindi ovviamente al momento non esistono. Diventa difficile. È sempre più difficile. Ha fatto bene aprire un ristorante. Incrociare le due cose. Perché questo va detto, nel senso che vegano va bene, ma bisogna saper cucinare molto meglio dei non vegani, nel senso che fare una pasta al ragù alla fine uno ce la fa, però invece cucinare una roba molto buona vegana, senza uova, senza latte, senza un sacco di cose, è più difficile. Vi assicuro, è molto più difficile, però è immensa la soddisfazione, è immensa la creatività. Grazie. Ottimo, Antonella, grazie mille. Buona giornata. Grazie a voi. Buona giornata. Grazie. Allora, sentiamo un'altra ascoltatrice, Maria Grazia da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Lei su cosa voleva intervenire, Maria Grazia? Essere vegana. È vegana, è felicissima di essere vegana. Benissimo. Perché? E certo, all'inizio la cucina è un po' impegnativa, finché non ci si prende la mano. Mm-hmm. Però vi assicuro, in termini di leggerezza, e poi soprattutto perché non c'è dietro nessuna sofferenza animale. Ecco, quello è il punto da cui sono sempre partita. Quindi lei parte dal discorso di salvaguardare gli animali, però poi unisce il fatto di sentirsi leggera. Leggera proprio intende fisicamente, cioè uno non mangia cose animali e si sente più leggero. Guardi, io ho mangiato purtroppo, vista la mia età, per tanti anni, purtroppo, prodotti animali. E adesso avevo spesso mal di stomaco, questo senso di pesantezza, per carità. È tutto un altro vivere, almeno per me, e non è una moda la mia, è soltanto un discorso, perché adesso parecchi magari. No, c'è la moda, ma c'è anche gente che come lei c'ha ragionato, c'è arrivata. Anche chi lo fa per moda, tramite insomma. Una scelta, se poi la moda è positiva tanto meglio. Grazie anche grazie. A Maria Grazia. E, ricordo che stiamo cercando un personaggio di questa settimana che è un ex, ma che ha avuto a che fare qualcosa con l'ambito, diciamo, delle notizie. Questa settimana si vince un soggiorno di EcoTube. Devo dare un altro indizio? No, aspetta, sennò è troppo facile. Facciamo un ex, chi è che non è un ex? Però in effetti ha avuto un ruolo e adesso non l'ha più. Fabio da Brescia, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Se c'era un indizio in più, magari non ci trovavo, però. Tra poco ci sarà l'indizio in più, intanto se vuole buttarsi, non sì. so. Proprio non ho seguito, di solito vi ascolto sempre fin dalla mattina. Bene. Ma stavolta sono entrato solo per il discorso del vegetariano. Perfetto. Io ho cominciato anni fa a non mangiare carne per, secondo me, le porcherie che ci sono dentro nella carne. Poi è subentrato l'animale e l'amore per gli animali, e quindi è da parecchi anni che non mangio carne. Però riguardo l'aggressività, purtroppo quella non l'ho persa, perché sono sempre. Ma cosa mangia? Cosa mangia? Allora, nemmeno il latte, perché... Magari mangia dei bambini ed è per quello. Forse no, no. Ho smesso anche di essere comunista da un po'. Mangio molte fibre, pasta, mangio parecchia, verdura tante, frutta. Faccio anche parecchia attività sportiva, anche io faccio ciclismo in montagna e non ho assolutamente carenze. Ma formaggio e uova invece le mangia? Uova sì, formaggio poco, ma per un discorso di grassi, un po' come il latte. Ah, certo. Mangiare volentieri. Piuttosto mangio, ecco, la soia liquida al posto del latte con dentro un po' di fibre. Va bene, ottimo. Grazie Fabio, no, grazie Fabio da Brescia. Grazie, grazie. Comunque una non mi sembrava cose... violentissimo e no. aggressivo. Una delle cose che me, non avevo considerato di questa puntata è che si sarebbe parlato moltissimo di cose da mangiare, essendo a stomaco vuoto. Fame, quasi a questo punto, fra un po' non so, dovremmo azzannare qualcosa. Adesso non voglio dire niente di anti-vegano, però devo dire che a me soia liquida non è che mi fa venire non proprio è... una fame pazzesca, se devo essere onesto. Io, diciamo, se sento cornetto la Nutella, già di più. O pizzetta, o... Cornetto alla Nutella? No, niente, non è vegano. Guarda che è difficile il vegano, perché pensa a una però cosa. Però una bella fetta di torta di ceci o di cecina, come diciamo noi in Toscana, saporita, bella cotta al quella, forno. Quella forse vegana sì. È fritta, non so. Sì, fritta no, i vegani sì. Sì, sì, sì. No, perché io pensavo prima di melanzana parmigiana. No, perché ci sono i latticini dentro, ovviamente. Vabbè, tu adesso i vegani è difficile. Scoprirai quante cose non mangiano i vegani, praticamente esatto. Tutto. Io e mio cognato. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Il momento delle nostre prima cartolina dalle periferie. Avete sentito un pezzo di una canzone che tra poco sentiremo in versione integrale, di Simone Saccucci, che nella vita fa l'assistente sociale ma è un cantastorie. Buongiorno Simone. Buongiorno Ezio, buongiorno a tutti. Buongiorno. Che porta avanti un percorso, un progetto che si chiama? Si chiama Rocce, Spine, Streghe, che è stato entrato in un documentario della BBC, sì. Ha fatto uno spettacolo in una cava di pietra, di marmo, credo che fosse a Guidonia. Sì, Travertino, che è una parte... È marmo, uguale. Esatto, è un marmo. Sì. Poi ne farà degli altri. Gira le periferie, fissato con il concetto di periferie. Fissato sembra una parola brutta, ma in realtà è interessato a capire come si vive, da dove veniamo, dove andiamo. Simone, noi l'abbiamo incontrato altre volte. Adesso vogliamo creare con te, Simone, un appuntamento la domenica per regalarci così un commento, una tua visione, un momento. Adesso andrai per esempio anche a Scampia a fare uno dei tuoi spettacoli in cui coinvolgi le persone, perché normalmente il metodo con cui tu fai i tuoi spettacoli è quello di prendere voci, storie e poi riproporle in qualche modo, no? Sì, cerchiamo di organizzare sempre tutto insieme, il più possibile insieme, quindi già prima di salire sul palco cerchiamo di organizzarlo tutti insieme al palco, poi salgo io e poi se ce la facciamo salire anche il più possibile di chi è davanti a me, sempre sul palco, cerchiamo di fare qualcosa di comune, ecco, uno spettacolo comune, chiamiamolo così. In cui veramente sentite le voci dei nonni, le voci, vedete Simone in grado di raccontare, di creare delle immagini che ti restano. Per esempio, adesso sentiremo una canzone, quando ci salutiamo, una tua canzone, ed è diciamo proprio il francobollo, se vogliamo, della cartolina con cui tu ci lasci. Però poi Simone ha un blog, scrive anche sui social network, su Facebook, dei pensieri, e questi sono i contenuti, diciamo, di queste cartoline. Tempo fa hai commentato una cosa che è accaduta e diciamo si è messo anche in veste di cittadino pensante. Cos'è accaduto qualche giorno fa? Ma guarda, mi è capitato di fare le 5 di mattina insieme a dei poliziotti, a due della Croce Rossa, a 5 pompieri, insomma una cosa un po' particolare che non mi era mai capitata prima, perché la mia vicina di casa, anziana, che vive da sola, ha cominciato ad urlare durante la notte. E alla fine io mi sono deciso a chiamare le forze dell'ordine e sono rimasto contento, sì, è la parola esatta, di tutta l'organizzazione, della delicatezza ed anche della simpatia che hanno avuto tutti durante questa nottata per cercare di fare qualcosa per la signora. Solo che mi sono rimaste in testa due cose che invece ho trovato molto spiacevoli. La prima è che ho aspettato 15 minuti per chiamare le forze dell'ordine. Non riuscivo a prendere coraggio. Alla fine l'ho fatto perché la signora continuava ad urlare, ma è stata una cosa insomma quasi forzata, ecco. E la seconda cosa è che siamo stati durante tutta la notte fuori dalla porta della signora, parlando, facendo telefonate, addirittura quando sono arrivati i pompieri facendo un rumore incredibile con il frullino per aprire la persiana e per entrare a forza dentro la casa della signora, e nessuno del condominio dove abito io si è affacciato ad una porta, ad una finestra. Questa cosa mi ha colpito parecchio. Ma perché sapevano che c'eri tu, forse, no? Forse, probabilmente. No, ma che cosa è successo alla signora, però? Perché adesso siamo in... Scusami, io sono lo stupido dei due, non sono il giornalista che è Alessio. E intanto ti ringrazio un sacco di essere con noi, che siamo molto felici delle tue cartoline che inizieranno. Grazie. Adesso. Ma che cosa è successo alla signora? Ce lo devi dire, qualche cosa, un indizio almeno? Purtroppo l'epilogo è stato quello che immaginavamo tutti, insomma. È andata poi dopo quell'evento, insomma, la famiglia l'ha portata a casa, poi si è sentita male e niente, non è finita nel migliore dei modi, ecco. Quindi l'epilogo è stato la fine, insomma, la signora ci ha salutato, ecco. Quindi quello probabilmente aveva avuto l'ultima crisi. Però tu hai avuto, certo, tu hai avuto la percezione, avevi scritto, che insomma in quella notte lo stato che noi spesso critichiamo c'era, e forse erano le persone, i vicini che c'erano un po' meno. Questa è stata la conclusione di questa tua prima cartolina. Simone, noi ti ringraziamo, ti risentiamo domenica prossima, ci salutiamo sentendo la tua canzone Testa Dura. Ciao Simone. Grazie, ciao Simone. E tutti i miei ricordi ora puzzano di fumo, la mia città è crollata, c'è stato il terremoto, e in mezzo a tutti i resti oggi piange il mio futuro. Ho perso? Un braccio, ma come posso fare? Me ne è rimasto un altro, posso ancora afferrare. Ho perso una gamba, ma voglio ancora andare. Magari andrò più piano, mi toccherà di supplicare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Questa era una canzone dei Radiohead, Crep. Credo che Creep. Creep, io gli avevo detto Creep, però se... Crep, perché siamo in la tema crepe, di culinario, però non è vegana la crepe. Io la non crepe la conoscevo questa canzone, avrei detto Creep, però sentivo che diceva... Sei sicuro che sia Creep? No, io non sono sicuro di niente. Una figura proprio che sia sicuro io. Del cavolo niente, colossale niente. È la canzone che ci suggerisce l'ascoltatrice Federica Riano, per quanto riguarda le vostre canzoni, il vostro Si può fare, le canzoni che vi danno la carica. Continuate a scrivercele, a mandarcele, scriveteci. Ricordiamo anche i nostri contatti, già che ci siamo, su Twitter @sipoffare24, il mio @LeMaurizzi, il mio @CarloGabardini, oppure per i più timidi c'è ancora la mail sipoffare@radio24.it. Ah, perché più da timidi tu dici? La mail è meno invasiva. Sì, perché uno scrive i social network, devi mettere la foto, il profilo, e devi soprattutto creare. Soprattutto è pubblico, il tweet è pubblico. Il tweet nel è pubblico. Ti scrive, mail, dopo invece tutti... è anche una cosa che uno può scrivere giusto, così. Giusto. Bello, è già invecchiata anche la mail, siamo veramente degli anziani. Sentiamo un po' di ascoltatori. Giuliano da Cremona, buongiorno. Saluto, buongiorno. Buongiorno, salute. Prego, su cosa voleva intervenire? Volevo chiamare per il gioco dell'ex. Sì. Prego, siamo lei? Tutto orecchi. Io ho pensato a Papa Ratzinger. Sta celebrando. Beh, direi che la risposta è perfetta in realtà, direi che è l'ex più celebre del mondo, più ex di lui, cioè un, esatto, ex papa, è veramente il primo ex papa o il secondo se si vuole, diciamo, al mondo, quindi era un'ottima idea, e la notizia sicuramente è il fatto della santificazione di oggi a Roma, anche lui alla canonizzazione, però non è quello che avevamo pensato noi. Grazie comunque, Giuliano. Ti ringrazio molto. Grazie, grazie, grazie a lei, buona domenica. Rossana da Milano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io ho chiamato perché noi siamo una coppia di 54-55 anni, sì, e siamo vegani. Oh. Quindi siamo diventati vegani nel tempo, senza stravolgere la nostra vita, sì, per, da 5 anni più o meno. E la cosa più bella è che è vera, l'aggressività, come diceva la prima persona che è intervenuta, è diminuita. È stato proprio palese anche fra di noi. Palese, ma ci racconti questo palese, perché è interessante come si valuta l'aggressività. Sta parlando dell'aggressività fra di voi di coppia? No, ma direi tra noi no, perché c'è un'ottima intesa, ma proprio rivolta verso gli altri. Quindi, senta Rossana, le posso chiedere anche una cosa? Sì. Siccome c'è un'ascoltatrice che al 349-238-6666 ci scrive, ci dice che lei ha il colon irritabile e non può mangiare tante verdure, quindi vorrebbe essere tanto vegana anche lei, ma non so se è una scusa per non mangiare le verdure o se è la verità. Lei ha qualche consiglio? No, è un problema quello. Direi di iniziare con piccole dosi e con diciamo verdure, soprattutto crude, perché noi mangiamo molte verdure crude, non siamo solo vegani, utilizziamo un metodo. Quindi che lei si chiama, dice che le verdure sì, crude, sì, Rossana, sono meno fastidiose per chi ha questo sono problema. Sono meno, alcune più di altre, quelle che contengono meno fibre, quelle tipo? Che filano meno, mi prende, io non ho questo problema, non mi sono posta. Va questo bene, problema. No, scusi, ma poi però posso dire che non è un modo proprio per iniziare molto soft, cioè mangiare solo verdure crude, direi che... No, io non dico di mangiare solo verdure crude, io ho detto che di preferire le verdure crude alle verdure cotte, perché certo, comunque contengono molte più vitamine, sali minerali che si disperdono nell'acqua, per cui ne può mangiare una quantità minore, ma assume molti più minerali. Questo. Grazie Rossana, sentiamo se qualche altro ascoltatore vegetariano o vegano dà un suggerimento a questa nostra ascoltatrice che chiede suggerimenti come fare per chi ha il colon irritabile, per quale verdure è meglio mangiare. La signora diceva verdure crude, può darsi che abbia ragione. Massimiliano da Verona, buongiorno. Buongiorno. Può darsi, perché io non ne ho assolutamente idea, cioè nel senso purtroppo non io non sono medico, quindi non saprei cosa dire. Io, a dire il vero, so che conosco persone che questo problema l'hanno risolto con il cambio di alimentazione, cioè diventando vegane, onnivori a vegani, però non saprei, non vorrei dire cose che poi dopo non mi competono. Ma può dire quello che vuole, non è che bisogna essere un medico per dare un consiglio sull'alimentazione, insomma. Poi... Allora, io, per quel che riguarda me, io sono militare, faccio anche un lavoro molto pesante, e devo dire che il mio cambio di alimentazione mi ha solo migliorato. Sono diventato vegano da 6 anni. Un militare vegano mi sembra mi sembra una notizia, no? Sembra un libro di Flaiano, un militare vegano. Potremmo scrivere un libro. Io volevo intervenire soprattutto dal punto di vista di chi si lamenta dell'adattamento, del pigro. In realtà, chi lo fa per motivi etici come me, l'adattamento è in realtà una piacevole scoperta, perché a me piace molto anche cucinare, e devo dire che non è stato per assolutamente un sacrificio. Io che vengo dalla terra dei risotti, guardate che un risotto vegano, togliendo tutte... Vabbè, un risotto vegano, un risotto con le asparagi, un risotto vegano, va benissimo. No, perché al veronese se gli togli il burro... E non è mantecato un risotto vegano, non ha neanche il grana, non ha il burro. Non è assolutamente vero, perché noi non siamo una setta. Con cosa me lo mantechi il risotto, se lo non è il burro? Allora, il soffritto lo faccio con l'olio d'oliva. Olio extravergine. Lo posso mantecare o con una noce di burro di soia, non la margarina per via dei grassi. No, va bene, il burro di soia, basta, hai risposto, benissimo. Lo posso mantecare anche con una miscela di lievito alimentare in fiocchi mescolato con delle mandorle tritate. Adesso non mi dare troppe risposte, perché se no andiamo in confusione. No, esatto. Vabbè, burro di soia, già abbiamo dato una risposta. E voglio farti un'altra domanda però, come funziona in caserma con l'alimentazione, il fatto che sei vegano, i tuoi compagni, che cosa dicono gli altri? Allora, i miei compagni, devo dire che io preciso che sono diventato vegano per o con militoni, forse compagni non si può dire, giusto, per i militari, chiedo scusa. No, non c'è problema, figurati. Io lavoro in aeronautica, sì. I miei colleghi, sapendo che prima io ero uno che faceva le grigliate, che sapevo cucinare, so ancora cucinare, devo dire che hanno accolto bene questa cosa, nel senso che si sono chiesti il perché. Io l'ho fatto per motivi etici, da un giorno all'altro ho smesso perché e mi piaceva la carne. Sì, ma i commilitoni come l'hanno presa? La domanda di Carlo è questa. Mi hanno chiesto tutti perché hai preso questa decisione. Però nessuno ti prende in giro. Nessuno mi prende, io l'ho fatto per motivi etici e non salutistici. Va bene, perché... i commilitoni sono intelligenti, non sono dei cretini. Sono chiesti perché, però... stando bene prima e stando bene adesso, hanno voluto chiedermi perché l'inquinamento, l'etica, la compassione, eccetera, eccetera. Bravo, certo. Massimiliano, grazie. Grazie mille. L'ultima cosa, guardate che la Nutella vegana è molto più facile da fare, senza nulla di animale, che con il latte, il burro e tutte le... Mi vieni a prendere, se parli a me di Nutella mi vieni assolutamente a prendere, quindi adesso, anzi, lo dico a tutti, la Nutella vegana, perfetto, forse ci faccio un nuovo video, chissà la Nutella vegana che cosa significa nel metaforone, va bene, grazie. Adesso rischiamo di aprire un altro capitolo, la Nutella, esatto, questa esatto. È riferita a te, questa certo, Nutella. Certo, la Nutella vegana. Anna da Milano, buongiorno, velocemente prima del traffico, un'altra ascoltatrice. Lei su cosa voleva intervenire, Anna? Ma allora, io volevo provare a dare una risposta al personaggio della settimana. Brava. Anche se purtroppo non ho sentito la trasmissione dall'inizio, quindi magari c'erano indizi che ho perso. No, però, è un unico indizio, è un ex. Ecco, allora, sull'ex a me è venuto in mente Berlusconi. La prima cosa, perché insomma, come ex premier c'è stata questa sovraesposizione questa settimana per vari motivi e mi è venuto in mente lui. Le motivazioni ci sono tutte. No, ma il personaggio non è lui. Grazie Anna. Grazie mille però. Diamo un altro indizio? Sì. Da un altro pezzo di indizio. Diciamo è un ex sindaco. Però in realtà noi diciamo un ex sindaco, nel senso che effettivamente è un ex sindaco, ma gli abbiamo dato l'etichetta di ex più legata alla notizia di questa settimana al nostro personaggio. Quindi è ex anche qualcos'altro, non è solamente un ex sindaco, è un ex ex. 800 24 00 24, torniamo tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. C'è da spostare la macchina di prima. Vuole venire qualcuno a darci una mano oppure no? Che siamo qua tutti a ballare, io sono fuori a lavorare. C'è da spostarla e basta. La vogliamo la spostarla o no? E basta. Credo che fosse il 1989 questa roba qua. La ricordo bene. Salvi. Salvi. Questo grande Francesco. Che abbiamo una certa età perché, insomma, 89, sì, sono passati... 89. Stavamo parlando della caduta del muro di Berlino, giusto? 89, sì, esatto. Quello. Cos'è? Drive-in? No, erano quegli anni lì. Lui faceva anche, partecipava anche a Drive-in. Sì. Poi lui faceva uno show suo molto divertente. Abbiamo scelto di introdurre così l'argomento che riguarda Milano e che riguarda soprattutto il tema delle macchine, togliere le macchine dalla piazza del Castello, cioè pedonalizzare una tutta parte piazza Castello importantissima della città, gente che va a piedi, in bicicletta, commercianti sempre molto molto preoccupati. Il nuovo progetto dell'amministrazione della Giunta Pisapia, ne parliamo con l'assessore alla mobilità e all'ambiente del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Ciao Pierfrancesco, sono Carlo Gabardini, ci siamo visti l'altro ieri in manifestazione, così lo dico subito, ciao, e non ci sono problemi. Anche perché io non sono il giornalista dei due, sono lo stupido dei lui due. Può dire tutto il giornalista è Alessio, io dirò delle stupidate. Può dire tutto quello che vuole Gabardini ed è giustificato. Il Comune di Milano che sta portando avanti, devo dire tra l'altro subito agli ascoltatori, perché questi sono temi che dividono e che fanno discutere anche le città ai giorni nostri. Il Comune di Milano che sta portando avanti in linea e anche forse di più di quello che era la giunta precedente ad un altro colore politico, perché la chiusura al centro per i non milanesi, dico l'Ecopass, adesso area C, alle macchine con un pedaggio, quindi diciamo il disincentivo per le auto è iniziato da alcuni anni. Milano sta sperimentando questa cosa sempre con più forza. L'ultima frontiera, oltre a bike sharing, il car sharing, eccetera, eccetera, che avete pensato, assessore, è questo progetto. Un progetto imponente perché riguarda un pezzo grosso, quanti metri quadri di città? Sono circa 15.000 metri quadri, è tutto lo spiazzo davanti al Castello Sforzesco, che oggi viene utilizzato soprattutto per far parcheggiare i bus turistici, oggi, ieri, perché è da una settimana che sono partiti i lavori di chiusura. Noi abbiamo utilizzato questa formula della cosiddetta pedonalizzazione reversibile, che è un modello che attuano tante grandi città per vedere se un intervento funziona o meno. E questo ci dà l'idea sia per vedere quali sono le difficoltà, perché come dicevate Piazza Castello è un nodo comunque importante della nostra città, quindi bisogna vedere se il traffico intorno regge, ma anche se 15.000 metri quadri sono poi vissuti dai cittadini e diventa un elemento effettivo di miglioramento della Ecco, questo mi sembra proprio il punto fondamentale, perché noi, dicevo, è un tema proprio di questi anni. Pensiamo a quanto si è parlato sulla pedonalizzazione dei fori imperiali a Roma, il lungomare di Napoli, che poi ha avuto anche degli intoppi, non è andato benissimo. Cioè, questi progetti, come si può fare come programma? Noi parliamo sempre di biciclette, di aree pedonali, siamo felicissimi perché fa bene andare in bici e quant'altro, però poi abbiamo imparato anche che ci sono delle controindicazioni, che ci sono rischi, i commercianti che hanno paura, dipende poi da come si realizzano queste cose. Intanto, doverosamente, quali sono le critiche che avete ricevuto a questo progetto anche in amministrazione comunale da parte dell'opposizione? Perché vi criticano? Perché ci sono un po' di problemi, no? Allora, vi sono due obiezioni che anche dal nostro punto di vista sono comunque ragionevoli, sono parte degli interventi che noi stiamo cercando di monitorare. Da un lato, se si chiude Piazza Castello, il traffico si sposta nelle vie limitrofe, in particolare Foro Buonaparte. Foro Buonaparte, sostanzialmente, che è tutta pavé e col motorino è molto faticoso, così spezzo una lancia per chi ha il motorino e le biciclette. Questo è vero. Messaggio subliminale anche per dire che se riuscite a togliere un po' di pavé non sarebbe male, perché sì. No, poi ci sono quelli che si lamentano che il pavé è bellissimo, sì, quindi, sì, giusto, è vero, fa parte. Lì poi si va a capitolo sovrintendenza. Esatto, forse. Ti ho interrotto, perdonami. No, no, ma tra l'altro nelle obiezioni abbiamo anche il comitato No Asfalto che chiede di non rimuovere il pavé nelle c'è un comitato per ogni cosa. Trovate un argomento e vi indicheremo un comitato che si oppone a qualcosa. E l'altra obiezione ovviamente è che bisogna far vivere la piazza, che è di queste dimensioni e deve diventare un luogo vissuto, quindi ci saranno per tutta l'estate una serie di eventi importanti e auspichiamo che si crei l'abitudine, insomma. Poi nei mesi vi capiremo se la gestione del traffico nelle vie intorno è sufficiente, se la parte degli eventi è di valore, se magari anche tenere la piazza ogni tanto un po' più vuota permette di scoprirla in maniera diversa. Però devo dire che la città, dicevate anche a cavallo delle amministrazioni, è cambiata molto. Noi abbiamo una telecamera che misura il traffico a 300 metri da Piazza Castello. Dal 2007 ad oggi le auto che entrano in questa via, che è via Legnano, si sono ridotte del 48%. Poi noi che facciamo, te credo, si paga, si paga il ticket. È il famoso disincentivo. Ma cioè, per la questione dell'area C sono diminuite, stai dicendo? Principalmente sì, ma secondo me l'area C, prima Ecopass, si sono anche inseriti sul fatto che anche in Italia, o almeno a Milano, si è sviluppato quello che tante altre grandi città fanno già da 20 anni, cioè l'idea che comunque il centro della città, perché deve essere un luogo ad alta qualità della vita, va raggiunto principalmente con i mezzi pubblici. Certo, non ci va in macchina. Parliamo sempre di auto, ma dentro l'area C ogni giorno oggi entrano 90.000 macchine, ma con il trasporto pubblico entrano tra le 5 e le 600.000 persone, quindi le proporzioni sono anche quelle ed è anche il motivo per cui cerchiamo di recuperare più spazio per la pedonalità. Certo. Ma pensi che apriranno nuovi esercizi pubblici? Perché se non sbaglio in realtà in Piazza Castello sono molte abitazioni o uffici o abitazioni, sì, private. Non c'è molto, non ci di sono pubblici esercizi, tanti, è vero, pubblici esercizi. Questo potrebbe essere un limite, perché se non c'è modo, cioè se non c'è motivo, diciamo, di avvicinarsi alla zona, il rischio, sì, però, che diceva l'assessore di rimanere con la piazza un po' troppo vuota. Ma nasceranno chioschetti, baretti, immagino, no? Domanda. Su questo stiamo discutendone con la sovrintendenza. Da qui a settembre la piazza sarà ben vissuta, ora questa settimana ancora no perché ci sono i lavori in corso, ma domenica, per chi vuole venire a Milano, c'è il Mercati della Terra della Coldiretti, sarà una bellissima occasione. Poi la settimana dopo utilizziamo le installazioni che ci hanno donato dal fuorisalone del mobile. E dopo partono una serie di iniziative, ci sarà il villaggio della Coppa del Mondo, insomma sarà una piazza che d'estate vivrà molto. Ecco, tra l'altro siccome dopo fatto un progetto per l'autunno e che ci accompagni fino ad Expo se la sperimentazione ci convince. Beh, poi per Milano è un periodo questo d'oro dal punto di vista degli eventi, quindi non mancheranno le occasioni. Siccome so che a voi politici, assessori, piace poi dare anche i titoli, avere dei piccoli primati, ma 15.000 metri quadri senza auto, non l'ho visto scritto ancora da nessuna parte, ma non è forse la più grande pedonalizzazione, non so, degli ultimi anni in Italia, forse così d'amblè, o no? Beh, però che su questo, o c'è qualcun altro che vi ha battuto? Credo che non lo so, però penso che non la si misuri al metro quadro la pedonalizzazione. No, era una curiosità. Però questo meccanismo crea un'isola pedonale pressoché continua che collega l'Arco della Pace fino ai giardini pubblici di Porta Venezia, sono 3 chilometri. E in una città in cui comunque la vocazione turistica, nonostante quello che si dica, è estremamente importante, dà anche l'idea a chi viene a Milano, e la maggior parte delle persone lo fa ormai con il treno e l'aereo, che si può scoprire una città in una maniera vivibile, forse un po' diversa da come veniva raccontata a Milano solamente 15 anni fa. Poi una cosa dobbiamo dirla, una lancia va spezzata a favore di questi progetti, per quanto riguarda la città di Milano in particolare, perché i mezzi pubblici ci sono veramente, funzionano, e quindi si può davvero raggiungere ogni punto della città, parliamo di questa zona del centro, tranquillamente coi mezzi, quindi questo sì. In altre città altri progetti di pedonalizzazione hanno sollevato problemi, perché se non metti l'autobus dove non c'è la metropolitana, allora veramente il cittadino rischia di essere tagliato fuori, e questo è un problema da risolvere. Comunque noi vi facciamo in bocca al lupo. In coda però le vorrei chiedere anche un'altra cosa, perché oggi Repubblica c'ha una pagina in cui dice che anche a Loreto, un'altra zona importante, adesso qua entriamo proprio nel super milanese, volete far passare le macchine sotto anziché sopra? Beh, Loreto, ho capito male. È di tutta Italia, diciamo. No, non è così. Allora, ci stiamo iniziando a lavorare ed è un progetto che appena finito Expo vogliamo studiare nel dettaglio. Sì. Piazzale Loreto, per spiegarlo a chi non è di Milano, è una grande rotonda dove passano solamente macchine e i pedoni hanno un ruolo marginale, però c'è tutto uno spiazzo in mezzo che è totalmente inutilizzato. Allora, riorganizzando un po' i posti nella piazza dove è previsto il traffico, si può rendere un pezzo della parte centrale utilizzabile e restituirlo ai cittadini. E questo è anche una cosa importante, perché permette di ricollegare due vie simboliche anche un po' dell'inizio della periferia della città, via Le Monte e via Padova, al centro della città. Quindi ci sembra un progetto di qualità che noi vogliamo costruire nel periodo 2015-2020. Va bene, grazie. Allora in bocca al lupo, assessore Maran, in bocca al lupo soprattutto alla città di Milano. La notizia da cui siamo partiti è questa, la pedonalizzazione dell'area di Piazza Castello, un'area a vocazione turistica, c'è il parco, insomma. Ma neanche in motorino si passa, giusto, in Piazza Castello? No, c'era il tutù. Ah, perfetto. No, ma direi proprio no. Resteremo nel dubbio. No, ma mi sembra. Basta andarci, perché credo che sia già iniziata la sperimentazione. Basta provare. Vorrei solamente dirti che io da casa mia, quando per venire in radio, facevo tutte le volte Piazza Castello. Quindi adesso ho un grosso problema. Credo che non potrò più venire in radio. Oppure inizierò una mezz'oretta dopo, perché non so da dove passare. Oppure dovremmo vedere di spostare la radio vicino a casa tua. Esatto, esatto. Perché la faccio proprio sempre quella. Che tra l'altro è già una zona che va detto che è spesso a volte chiusa. Sì. Perché per la strada Milano viene chiusa. Ogni volta che c'è una manifestazione, diciamo a Milano, è facile che poi passi in Piazza Castello, quindi, e si fa foro a buona parte, che però è molto più stretto. Cari ascoltatori milanesi e no, se volete intervenire anche su questo 800 24 00 24, anche se poi giudicare queste cose si può fare meglio se si conoscono i progetti, se si vive la città, perché altrimenti si fa una sterile divisione tra macchine sì, no, certo. Pedonalizzazione sì, no, ma non è questo il tema. Ci fermiamo un attimo. Sentirsi con papà senza santi da pregare, si può fare. Ed avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. Comunque, Gavardini, mentre twitti, guarda che abbiamo trovato insieme a Paolo Corleoni in regia la soluzione per i tuoi sabati e domenica mattina. Non puoi passare dal castello pedonalizzato, ma puoi prendere la metropolitana. Ma certo che posso prendere la metropolitana, a parte che il sabato cerco di venire qua molto presto e quindi alle 6 del mattino. Ma questa è una leggenda è un metropolitana. È una leggenda metropolitana, appunto. Iniziamo alle 7:30, quindi in realtà. Ma io vengo prima, lo sai che faccio anche le pulizie, sono lo stagista, devo pulire gli augelli della stampante. Ah, è vero, è vero. È ovvio. Ascoltatori all'800 24 0024, Antonia da Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Lei su cosa voleva intervenire? Volevo dare una risposta al gioco. Perfetto, il personaggio della settimana secondo lei è? Siamo tutti orecchi. Io ho l'ultimo indizio, ho pensato al premier ucraino, Yatsenyuk, che è stato ricevuto da un ex... Lui è un ex sindaco, è stato ricevuto da un ex sindaco, cioè Matteo Renzi. Ah, beh, non era male. Due ex sindaci, tra l'altro. Non era male, però, grazie Antonia, non era questo il personaggio che avevamo pensato. Non era questo. È un altro ex ed è un altro ex sindaco. Proviamo con Vanna da Torino, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Io ho pensato a Renzi direttamente, veramente. È il più facile. Direttamente senza l'ucraino, sta dicendo? L'ucraino. No, senza passare per l'ucraino. Di Renzi proprio, che lui è un ex sindaco. Certo, a parte che io c'ho sempre il dubbio, non sapevo nemmeno se si fosse dimesso o se in realtà stava reggendo il suo vice in questo momento. Sta reggendo, credo, ci saranno le elezioni prima o poi e quindi... E siccome per ignoranza è ovvio che non è Renzi. Comunque non era, grazie Vanna. Ah, quindi non è Renzi. Mi spiace molto signora. Buona domenica. Vediamo un po', Giorgio, poi adesso diamo un altro indizio. Giorgio da Milano, buongiorno. Buongiorno. Io dico per il quiz Scopelliti, ex sindaco di Reggio Calabria, ex presidente della regione Campania, no, Calabria, sì. e candidato nell'NCD. Ah, lei diceva la notizia potrebbe essere la sua candidatura, lui è un ex sindaco, ci poteva stare. Ci stanno tutti gli indizi, ma non è lui. Ma non è lui. Grazie, grazie anche mille per aver telefonato, buona domenica. Allora, adesso facciamo, diamo un altro indizio? Ma sì. Sì. Lo dai tu, lo do io? Dallo tu, l'altro indizio. Qual era l'altro indizio che dovevamo dare? Che ama la poesia? Che ama la poesia. Questo è facile, eh? Beh, è più però facile, 10, però è giusto, 37, giusto, no. È giusto, è molto giusto. È un ex sindaco. È un ex ama la poesia. Sindaco ama la poesia ed è un ex anche per un'altra cosa che riguarda questa sua settimana. 800 24 00 24. Adesso invece andiamo nel tallone d'Italia. Gabardini, me la pronunci correttamente questa meravigliosa canzone di Bruce Springsteen, perché io con l'inglese non vado fortissimo, e ho bisogno... Walking on the highway, ecco. È giusto, ma io sono pessimo anch'io in inglese. Sei tu quello che sa le lingue, no, qua. Hai studiato la scuola tedesca. So il tedesco, no, beh sì, so l'inglese. Sai l'inglese, insomma. Sai tutto. Avete presente l'immagine dei lavoratori, dei detenuti che spaccano le pietre coi picconi, no, sotto il sole, nei film americani? Questo lavoro lungo i lavori forzati mi fa pensare sempre questa canzone a quell'immagine, perché in qualche modo di questo parliamo, ma in una evoluzione molto più moderna. I detenuti delle carceri italiane sono impegnati in vari progetti, uno di questi che li vede comunque impegnati in lavori anche di fatica, lo hanno realizzato alla casa circondariale Borgo San Nicola di Lecce. Noi salutiamo il direttore Antonio Fullone, buongiorno. Buongiorno a voi. Detenuti al lavoro puliranno le discariche abusive della città. Allora, il tema delle discariche è quanto più attuale, una delle cose più attuali, il tema dei rifiuti, basta pensare alla Terra dei Fuochi, e ogni città ha le sue discariche abusive più o meno nascoste, più o meno interrate. Il fatto che i detenuti possano essere una forza lavoro ce lo insegna per esempio la Germania, ma anche in Italia ci stiamo muovendo. Voi avete pensato di fare 2 più 2, come funziona questo progetto, Fullone? Sì, è un protocollo d'intesa sottoscritto con l'assessorato all'ambiente del Comune di Lecce, con l'assessore Guido. In pratica, nell'ambito di un discorso di riparazione sociale, che insomma il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria sta cercando ovviamente di promuovere, noi ci siamo ricollegati a questa opportunità e manderemo 5 detenuti ogni giorno ovviamente a dei siti, fra i quali anche appunto delle discariche risanare, da pulire, insomma, gratuitamente. Fatta eccezione per un rimborso spese che il Comune di Lecce appunto ha fissato in 5 euro al giorno. Si tratta appunto di una opportunità non solo di una riparazione sociale, come dicevo, quindi affinché queste persone possano anche ritenersi, essere ritenute una risorsa per la collettività, per la società, ma anche la possibilità di responsabilizzare queste persone che hanno l'opportunità con questo strumento sicuramente di rimettersi in gioco, quindi una percezione diversa anche della persona detenuta. Lei diceva una possibilità, perché si tratta di una, come dire, un'autocandidatura su base volontaria, oppure c'è una forma di coinvolgimento in qualche modo obbligato o incentivato? No, incentivato sì, obbligato no, perché ovviamente sennò perderebbe un po' il senso anche dell'iniziativa, nel certo. senso che noi si tratta ovviamente di un'opportunità che si offre, però c'è bisogno assolutamente della volontarietà, della disponibilità della persona. È chiaro che laddove, oltre dei requisiti ovviamente di massima che possano permettere alla persona di uscire dall'istituto per farvi rientro nelle ore pomeridiane. Però ecco, è chiaro che nel momento in cui la persona detenuta si mette in discussione, è chiaro che in prospettiva anche di benefici questa è una cosa positiva. Senta, ma quindi più che di un progetto di lavoro di detenuti si può parlare di un progetto di quasi di volontariato, perché l'incentivo di 5 euro al giorno non è un rimborso spese. Configurare come un mini salario. In Germania ci sono molti detenuti che lavorano, sappiamo per esempio al carcere di Verona c'è un progetto importante, ci sono detenuti che lavorano e guadagnano comunque qualche cosa. Non è un elemento, dico io, da sottovalutare quello di un rimborso spese o un mini stipendio, perché uno può pensare in carcere non ci sono spese, qualcuno malignamente pensa addirittura che si è a spese dello Stato, però in realtà per avere un pasto migliore, per comprarsi le sigarette, chi fuma, per cambiarsi un vestito, e ci poi sono per prepararsi anche ad uscire spese, perché spesso sono detenuti che magari sono anche un po' verso fine pena. Quando uno è in carcere sicuramente non può lavorare, allora la possibilità invece per un detenuto di lavorare non è da sottovalutare, questa è una cosa che si può dire. Sì, la correggo però parzialmente, perché sì. Non è vero che all'interno degli istituti le persone non lavorano. Noi a Lecce abbiamo quasi 300 persone che sono impegnate in diverso tipo di attività, da 250 in quelle che noi chiamiamo attività domestiche, cioè funzionali, sì, alla vita quotidiana dell'istituto, e altre in lavorazioni dipendenti anche da... Allora io mi riferivo a questo progetto in particolare. Questo progetto, sì, diciamo che innanzitutto ecco, la finalità è proprio quella della consapevolezza della riparazione sociale, dell'utilità sociale che la persona che ha sbagliato, che ha infranto ovviamente il patto sociale, come dire, no? Ecco, che è consapevole di questo, quindi una sorta di restituzione che la persona fa, e quindi proprio i fini, che si tratta per lo più di persone, appunto, come si diceva anche, sentivo in sottofondo nel studio, di persone che sono quasi prossime all'uscita in libertà, e quindi è ovvio che un ultimo passaggio in quel processo molto difficile e complicato che noi chiamiamo risocializzazione della persona. È chiaro che con il Comune di Lecce si sta anche pensando che le persone che dovessero essere più meritevoli possano anche proseguire il loro rapporto, cioè, o meglio vedere trasformato il loro rapporto in un rapporto anche più stabile e di diversa natura. E comunque poi perché... sì, prego. Sì, no, dico, quindi c'è anche una prospettiva in questo senso che funge da ulteriore stimolo per la persona appunto che decide di farsi coinvolgere in questo progetto. E comunque poi c'è anche un elemento di utilità per la città, perché se l'obiettivo è quello di andare nei siti da bonificare, comprese discariche abusive, insomma, ripeto, è un elemento di estrema attualità, grave, e quindi sicuramente ci sarà un beneficio anche per la città su questo aspetto che riguarda più il comune. Non so se vuole aggiungere qualche cosa. Assolutamente sì, perché con l'assessore Guido quello che volevamo raggiungere è anche il messaggio, sì, sociale, che ovviamente è insito nell'iniziativa, no? Il messaggio sociale, quindi di rispetto dell'ambiente, quindi è chiaro che se delle persone che sono state messe seppure per un periodo ai margini della società, ecco, recuperano e si inseriscono in questo recupero di un bene prezioso come l'ambiente, è chiaro che il messaggio penso che sia abbastanza chiaro e possa essere anche avere un effetto anche, non dico dirompente, però sicuramente certo, molto più forte di quello. E poi lo abbiamo detto tante volte, fortunatamente tutti i detenuti coinvolti in questi progetti di lavoro o di volontariato o di formazione, studio, tutto quello che volete, sappiamo dalle statistiche che le recidive, come ci diceva anche lei, insomma, in sostanza, sono molto più basse. Quindi è veramente anche un'assicurazione per tutti noi cittadini il fatto che questi detenuti siano recuperati per davvero. Io ringrazio Antonio Fuglione, direttore della casa circondariale Borgo San Nicola grazie di Lecce. Grazie mille, complimenti anche per questo progetto e anche per tutti gli altri detenuti che riuscite a far lavorare, perché non è una cosa facile, tra l'altro, bisogna dirlo, perché ci vogliono permessi, autorizzazioni, bisogna superare una burocrazia, trovare le aziende che vogliono compartecipare e quant'altro. Benissimo, abbiamo qualche ascoltatore, ce l'abbiamo in onda? Sì, Angela da Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Lei su cosa voleva intervenire? Sì, volevo intervenire per il gioco del personaggio della settimana. Siamo tutti orecchi. Chi è secondo lei? Secondo me è Sandro Bondi. Bene. Brava Angela. Sandro Bondi. Vabbè, le chiediamo di riepilogare brevemente perché... Era un sindaco comunista, sì. Poi dopo è passato Forza Italia e in questa settimana è uscito. Ha detto che sì. Sì, Forza Italia ha fallito, il centrodestra è senza futuro, quindi, sosteniamo Renzi. Poi c'è addirittura ha dichiarato renziano, poi dopo c'è stata una sua rettifica dove ha detto... Poi forse Alfano, insomma, adesso vedremo. Forse qualcuno poi gli ha dato un colpo di telefono, perché poi ha subito detto comunque a me Berlusconi piace tantissimo, io resto fedele, ci mancherebbe altro. Poi sono comunista, mi piace Forza Italia, mi piace Berlusconi, anche Renzi, e comunque è molto bello, anche Alfano. E comunque sono ex socialista. Esatto, e comunque ci sono le elezioni, se mi votate va bene. Questo è stato il suo discorso della settimana. Angela, complimenti, lei dice un soggiorno responsabile di EquoTube in una località che potrà scegliere attraverso il sito. Ma deve andarci insieme a Bondi. Ma deve... forse non gliel'avevamo detto prima. No, è vero. Invece questa deve andarci regola, insieme a Bondi. Deve convincere Bondi a venire con lei. Che ha qualche poesia, no? Ma certamente. Per forza, quindi. Grazie Angela. Va bene, grazie a voi. Buona domenica. Grazie altrettanto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, sentiamo anche, il premio l'abbiamo dato questa settimana, questa domenica, però possiamo sentire qualche altro ascoltatore anche su altri argomenti. Chi abbiamo? Alessandro, buongiorno. Buongiorno, sono buongiorno. Da Milano. Sì, da Milano, in questo momento sono in autostrada, ma volevo dare il mio parere sulla zona pedonale di Milano. Sì. Prego. E secondo me, io spero sinceramente che non facciano solamente baracchini durante gli orari notturni, perché sennò diventerebbe solamente un bivacco per persone che sarebbero lì tutta la notte, soprattutto per i senza tetto. Quindi spero che aprano anche altri esercizi per quelli che hanno un tetto pubblici. Sì, esatto, perché comunque la zona di Milano, quella lì, è completamente priva di locali notturni, da Via Dante fino in Piazza Duomo, e quindi vorrei che diventasse un po' come Corso Como, ecco. Ma non ho capito se vuoi o non vuoi i locali notturni. Io vorrei che ci fossero locali notturni non solo basati solamente su baracchini che vendono i panini. Cioè dei locali e non dei locali con dei muri e non semplicemente dei baracchini all'aperto. In questo senso. I modelli per zone pedonali potrebbero essere Corso Como locali oppure Via Dante negozi. Però Via Dante mi sembra più difficile perché non ci sono molti negozi, potrebbe essere più locali. Perché i negozi proprio non ce n'è, nel senso che lì proprio non ci sono. È molto residenziale, e quindi non so che cosa si inventeranno per far sì che... Vedremo. Bravo, mi sembra giusta la preoccupazione di Alessandro. Del resto l'ha detto anche Maran, ha detto è una pedonalizzazione sperimentale, reversibile. Reversibile, proviamo quest'estate, a settembre facciamo il punto, e se tengono fede a quello che hanno detto tutti i cittadini potranno dire la loro, e se ci sono delle obiezioni, delle miglioramenti verranno fatti sicuramente. Adesso magari la apriamo solamente di domenica, così passo io col motorino per venire qua a Radio 24 e poi la richiudono. Potrebbe essere una dedica speciale a Gabardini della pedonalizzazione di Milano. Adesso un appuntamento, la festa di cittadinanza attiva a Spoleto dal 2 al 4 maggio. 2, 3, 4 maggio a Spoleto, la festa di cittadinanza attiva. Abbiamo convocato il segretario generale dell'associazione, si chiama Antonio Gaudioso, buongiorno. Buongiorno a voi, no, buongiorno a voi. Allora, intanto come avete chiamato questa festa che è dedicata alla lotta agli sprechi? L'abbiamo chiamata SPEKO. Con un gioco di parole per dare il KO, diciamo, agli sprechi. Sì, diciamo che vogliamo tentare di fare tutto, non solo chiedere alle istituzioni comportamenti che educano gli sprechi, ma anche fare in modo che i cittadini si imbocchino le maniche e anche ci mettano del loro per evitare gli sprechi nella nostra società. Ecco, diciamo intanto una cosa, le presentazioni, poi parleremo della lotta allo spreco e degli appuntamenti, i laboratori che voi proponete, proprio tematici, con singole proposte. Cittadinanza attiva, noi ogni tanto vi chiamiamo per aiutarci, l'ultima volta quando abbiamo parlato di edilizia scolastica, per esempio, con il piano di Renzi, vi abbiamo chiesto di giudicarlo, perché voi ogni anno vi occupate molto di questo, aiutate le scuole nelle buone pratiche. Di cosa si occupa Cittadinanza attiva? Cittadinanza attiva è un'organizzazione che da oltre 35 anni si occupa di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione civica. Diciamo, facciamo in modo, e questo è il nostro obiettivo con i nostri volontari quotidianamente, che i cittadini non contino, diciamo, solo quando vanno a votare, ma soprattutto tra un'elezione e l'altra. Diciamo. Cosa troveranno le persone che vi vengono a trovare appunto a Spoleto dal 2 al 4 maggio? Troveranno tante occasioni di riflessione, di confronto sul tema degli sprechi, in particolare legato a tre tematiche principali: la lotta agli sprechi alimentari, ambientali e in campo sanitario del welfare. Insieme ad occasioni di dibattito e riflessioni ci saranno tante occasioni di festa, laboratori per i bambini, insegnare a cucinare con gli scarti alimentari, insegnare a fare dei pupazzi con gli scarti dei pezzi di stoffa che quotidianamente ci troviamo sotto mano. Ci saranno cantanti, occasioni di festa, diciamo una grande occasione per stare insieme, tra altre cose, in un contesto bellissimo che è la Rocca Albornoziano di Spoleto, che ha oltre 1000 anni. Quindi festa, riflessione, gioco, ma anche la possibilità di discutere su opportunità molto concrete di far sì che si sprechi meno nel nostro paese e tutto ciò che viene recuperato venga utilizzato per la crescita economica e sociale dell'Italia. Senta, mi sembra molto bello. Verrò a trovarvi perché io sono al Festival Internazionale del Giornalismo, che è a Perugia, in contemporanea tra l'altro con la vostra iniziativa, giusto? Sì, esatto. E insomma, è a 50 km di distanza. Esatto. Lo volete, Gabardini? No, perché se non lo volete ce lo dica tranquillamente, non ve lo mandiamo. No, siccome sono lì il primo maggio a un panel a parlare di comunicazione LGBT al festival, quindi nel caso vengo a trovarvi a Spoleto molto volentieri. Senta, con grande piacere, vogliamo fare anche qualche esempio di qualche laboratorio, di qualche cosa di concreto che riuscite a mettere in piedi per diminuire gli sprechi, che comunque ogni anno costano alla nostra economia, le nostre tasche di comuni cittadini, tanti inutili spese e soldi. Sì, ci sarà un laboratorio molto bello che sarà sia per le mamme, per i genitori che per i bimbi, che insegnerà come cucinare con quelli che normalmente vengono utilizzati, immaginati come sprechi alimentari e diciamo scarti della nostra alimentazione. E faremo in modo, partendo dai bimbi, dei ragazzi, ad insegnare con operazioni molto concrete come si può evitare di sprecare. E ci saranno anche chef importanti, per cui chef di Masterchef e una serie di altri amici che in quei giorni saranno con noi anche per insegnare concretamente. Bene, lo stiamo un po' perdendo, Gaudioso, glielo dico perché si sente male la linea, oltre che siamo in chiusura tra l'altro. Comunque abbiamo capito, grazie. Questo era l'appuntamento 2-3-4 maggio a Spoleto, la festa di cittadinanza attiva SPREKO. Gabardini, siamo in chiusura. Perfetto. Ci sono due messaggi, uno per te e uno per me. Esatto, io dico quello che giustamente devo aver detto. detto Augelli invece che Ugelli della stampante, chiedo scusa, è stato un erroraccio. Ma e ringrazio Gianfranco. Certo che ha ragione. No, perché io l'ho colto al dubbio, Ugelli. No, è assolutamente Ugelli, evidentemente purissimo, mi è girata la lingua in bocca, non volevo. E invece chiedo scusa. C'è un'ascoltatrice, Francesca da Verona, che dice: la canzone che ci suggerisce, la sua è Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Molto bene, la useremo sicuramente settimana prossima, la mettiamo. Poi si dice Creep, la canzone di Radiohead. Creep, quindi era riferita a me, che avevo il dubbio. Penso di sì. Beh, abbiamo corretto tutti gli errori, direi. A posto, fantastico. Quindi, va bene, possiamo anche salutare a questo punto. Sì. Allora, grazie ad Andrea Piana, che ha scritto con noi il programma, Giorgio De Luca in redazione, mezzo febbricitante questa settimana, tra l'altro Lorenzo Nespoli oggi in assistenza in diretta con noi, Paolo Corleone mitico in regia. Grazie, a sabato prossimo, Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Ciao, buona domenica, ciao. Sì.